invidio turista che arrivi, t'imbevi de fori e de scavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana de Trevi che è tutta per te. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti un soldino costringe il destino a fatte tornare. E mentre il sordo bacere puntanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma, goodbye au revoir. Si ritrova a pranza squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come tempi belli che Pinelli immortalò. Vede a spasso in carrozzella e ripensa a quella Schumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Stasera la vecchia fontana racconta la solita luna, la storia vicina e lontana di quell'inglesina col naso all'insù. Io qui, proprio qui l'ho incontrata, io qui, proprio qui l'ho baciata. Lei qui, con la voce smarrita, m'ha detto è finita, ritorno lassù. Ma prima di partire l'inglesina buttò la monetina e sussurrò: arrivederci Roma, goodbye au revoir. Voglio ritornare a via Margutta, voglio rivedere la soffitta dove m'hai tenuta stretta stretta accanto a te. Arrivederci Roma, non so scordarti più. Porto in Inghilterra i tuoi tramonti, porto a Londra Trinità dei Monti, porto nel mio cuore i giuramenti e gli allo più. Mentre l'inglesina s'allontana, un ragazzinetto s'avvicina, va nella fontana, prende il soldo e se ne va. Arriva.